Radio 24 Reportage. Pranzi Last Minute di Laura Bettini. È lunedì mattina e siamo a Bologna. Al supermercato Eurospar Arcoveggio c'è un gran traffico di clienti e di commessi, intenti a riempire gli scaffali e a vuotarli di quel che non si può più vendere. Ma non tutto quello che viene ritirato è realmente da buttare perché è immangiabile. Anzi, una bella fetta di quel che non può più essere esposto sugli scaffali ha ancora molte ore, se non giorni, di vita. E così anche questo supermercato ha deciso di entrare nel circuito di Last Minute Market. Se tu vuoi un nuovo amico, segui il suono del riciclo. È una società spin-off dell'Università di Bologna che opera su tutto il territorio nazionale, sviluppando progetti di recupero dei beni invenduti o non commercializzabili a favore di enti caritativi, alimentari, compresi pasti pronti per le mense, ma anche farmaci e libri. Una guerra allo spreco che ha evidenti benefiche ricadute sociali, ma anche effetti positivi in campo economico, fosse solo per la riduzione dei rifiuti. Ho un bel jingle nella testa e faremo una gran festa. Roberto Marangoni, responsabile del punto vendita di Arcoveggio, ci accompagna nel magazzino dove ha preparato tutta la merce che donerà. Come ho detto, è il primo giorno, spero di riuscire a aver fatto tutto quanto bene. Mi manca sicuramente un contenitore che il signore mi ha detto che me ne portavano in più. Spero di riempirlo per voi, ma non riempirlo per noi, per quanto riguarda l'azienda, perché per noi logicamente è un prodotto che non riusciamo a venderlo. Noi stamattina siamo già organizzati per tutta la merce che abbiamo ritirato. Logicamente è lunedì, è un giorno un po' diverso dagli altri, perché lunedì più che altro ci sono solo i freschi, mentre gli altri giorni andremo a dare anche la quarta gamma, che lunedì non riusciamo a dare per problemi di scadenza della domenica, che noi per domenica non ci siamo. Quarta gamma cos'è? La quarta gamma sono i prodotti di frutta e verdura già preparata e confezionata, che ha i giorni di scadenza più corti del ritiro di quanto riguarda i freschi. Sì. E speriamo di riuscire a fare qualcosa di buono e essere utile per le persone che hanno più bisogno di noi. È il debutto in Last Minute Market del supermercato di Arcoveggio e per questo è arrivato qui anche il capozona Emilia Romagna di Despar Eurospar, Paolo Orsi. Tutti i punti vendita dell'Emilia Romagna oggi partecipano a questa attività, consapevoli di quello che stiamo facendo. Accettano volentieri, quindi. Accettano tutti volentieri a livello di azienda, anche perché nel momento che corre, noi alla merce prima la buttavamo nei bidoni del pattume, oggi riuscire a risollevare delle situazioni all'interno delle famiglie è qualcosa che per me è importante come per l'azienda, e infatti ci stiamo attivando per questo. Senta, al di là dei benefici che sappiamo esserci, appunto, perché si fa del bene, perché poi comunque anche chi lavora qua immagino sarà gratificato dall'idea di non buttare più via le cose. In ogni filiale è stata fatta una riunione, tutto il personale è stato messo al corrente di questo tipo di attività, in maniera che tutti sono consapevoli del lavoro che stanno facendo e per chi lo stanno facendo e per come lo stanno facendo. Ci domandavamo prima se al di là di questo però c'è, che so io, un beneficio per i vari supermercati da un punto di vista, non so, della tariffa sui rifiuti, cioè il comune in questo. Allora, per quanto riguarda Ferrara, era, perché Ferrara è la mia prima esperienza, l'unica esperienza, era partecipa con una tassa sui rifiuti, ma che è minima, per cui stiamo parlando di sì, però non è un beneficio consistente che ci dà la possibilità di dire che effettua un'attività per risparmiare dall'altra, assolutamente. Però non dà dei benefici consistenti a chi fa questa cosa. Numeri, no. Sono dei numeri banali, cioè non so darle la. Ma la spazzatura per i supermercati a peso? A peso, sì, sì, va a peso, perché a pezzo non puoi quantificarlo e va a peso, per cui anche loro le bolle vengono effettuate a peso, perché comunque la merce a peso. Arriva il furgone della Onlus e l'addetto comincia a caricarlo dei prodotti già selezionati in negozio. Questo è un prodotto, questa è la famosa quarta gamma. Questa scade, oggi ne abbiamo 19, scade il 21. Quindi non era più da esporre. Esatto. Noi te la consegniamo oggi. Con altro contenitore, sì. Okay. Non c'è solo fresco nei pacchi donati dai supermercati, ma anche scatole ammaccate, confezioni multipack rotte e quindi non più vendibili singolarmente. Elisa Rosso, di Last Minute Market. I supermercati potenzialmente possono donare qualunque tipologia di prodotto, quindi dal prodotto fresco fino allo secco, allo scatolame e anche a tutta la parte non alimentare, per cui detersivi, saponi, questo tipo di prodotti qui. Però per esperienza la maggior parte dei prodotti riguardano i freschi e i freschissimi. Per questo motivo è meglio, è preferibile che la Onlus che recupera i prodotti sia una Onlus che ha una struttura con una mensa, con una cucina interna e che quindi è in grado di dare delle garanzie rispetto all'utilizzo del prodotto fresco, quindi è una struttura che può avere dei frigoriferi, che comunque può cucinare in giornata, al limite il giorno dopo, ma insomma in tempi abbastanza rapidi, quello che arriva, visto che le scadenze sono ravvicinate, e che comunque lo utilizza al proprio interno. Dopodiché, in ogni caso, si cerca il più possibile la Onlus più vicina al punto vendita, perché sia per le ragioni di cui sopra, quindi rispetto alla catena del freddo, il fatto che il recupero avvenga nel modo più veloce possibile è più sicuro, e poi proprio il risparmio e tutto quanto perderebbe di senso se la distanza fosse esagerata, esattamente. Di andare quotidianamente a caricare i prodotti di recupero per il centro accoglienza La Ruppe, che per tutti i motivi spiegati da Elisa Rosso è a Bologna, si occupa un giovanottone ben piazzato. Si chiama Luigi Allegretti e quella del recuperare è ormai una professione per lui. Recupero dei prodotti all'interno dei supermercati, ospedali, farmacie, scuole, mense diciamo che preparano pasti cotti, tutti questi diciamo prodotti che io recupero, cioè arrivano nella cucina, li preparano con tutta diciamo la loro procedura che va fatta e li consumano nelle nostre strutture. Quindi ormai è una scaletta praticamente quasi da autotrasportatore. Insomma, sì. Sia pur sulla città di Bologna, però. Cioè, io sono impegnato tutti i giorni dalle 8 di mattina alle 7 la sera a fare questi giri qui. È cresciuto il numero dei coloro che contribuiscono, diciamo, al progetto? Sì, è cresciuto moltissimo perché avevamo iniziato con le scuole e le Clerc, che era il centro commerciale di Via Larga. Quindi da lì poi è partito gli ospedali, che è il maggiore di Bologna, il Sant'Orsola, che ci dà i pasti cotti. E altri supermercati che è il Carrefour, le scuole, le mense di Casalecchio, le 5 scuole di Bologna dove recuperiamo pane, frutta e adesso anche il latte. Seguiamo il furgone di Luigi fino a una delle sedi del centro di accoglienza La Rupe per incontrare Francesca Lugli, uno dei responsabili del centro. È soddisfattissima della collaborazione con Last Minute Market, il cui frutto non sono solo i pasti che arrivano sulle tavole dei vari centri, ma anche il contratto di lavoro dello stesso Luigi. Noi assistiamo generalmente 190 persone al giorno. Assistiamo vuol dire che forniamo pasti per circa 190 persone all'interno delle nostre strutture. Quindi capisci che aderire al progetto Last Minute Market e a tutta questa rete di recuperi per noi ha significato in questi anni tantissimo. In che misura, diciamo, riuscite a coprire le necessità? Considera che mediamente, secondo me, un terzo di quelli che sono i pasti di cui abbiamo bisogno sono forniti comunque dal Last Minute Market, quotidianamente. E questo per noi ha sicuramente rappresentato un risparmio economico che abbiamo reinvestito in risorse umane, assumendo appunto la persona che fa questi recuperi, appunto Luigi, che era una persona che veniva dai nostri circuiti, dai nostri programmi terapeutico, che non riusciva a reinserirsi, aveva avuto delle difficoltà sul lavoro, e quindi abbiamo fatto questo grande investimento di un'assunzione a tempo indeterminato. C'è stato tutto un lavoro anche per passare il senso, il significato e il valore di far parte di questo progetto, perché può essere, no, facile pensare che una persona dice bene, no, mangio lo spreco, già sono io spreco, perché visto che ci occupiamo di persone in condizioni di disagio, ok, sociale e altro, mangiare poteva essere percepito male. Esatto, poteva essere percepito male. Invece spiegato, abbiamo fatto tantissime attività, no, di sensibilizzazione per spiegare anche, no, di che cosa stiamo facendo parte di questo grande progetto, che ha sicuramente un impatto di sostenibilità, no? Ambientale, etico, ecco. Per cui siamo riusciti veramente a tenere in piedi questo progetto, stiamo riuscendo a tenere in piedi questo progetto con grande soddisfazione da parte di tutti. Intanto in testa continuano a frullarmi le stesse parole di una canzone dei Manzella Quartet. Se tu vuoi un nuovo amico, segui il suono del riciclo. Ogni cosa che è finita, la portiamo a nuova vita. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.